avec des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait l'aval de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà infâme bail, ça fait déjà infâme bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage. Inizio subito questa fantastica trasmissione che nulla a che fare con l'8 marzo, tranquillizzatevi. Abbiamo già dato ampiamente nelle settimane passate con una comunicazione di servizio. Ieri ci hanno chiamato signore e signore dell'Istat dicendo che loro sarebbero stati felicissimi di partecipare alla trasmissione sull'omino di casa. Erano rimasti male perché avevo detto che eravamo inutilmente aspettati. Non so bene cosa sia accaduto, ma prendiamo atto di questa loro felicità e di questo loro desiderio di parlare del problema degli omini di casa, che abbiamo dimostrato attraverso il nostro pubblico essere così vivacemente sentito. Quindi ritorneremo con le cifre alla mano e con il ricercatore dell'Istat per vedere nello specifico quanto l'ominaggine di casa sia una statisticamente accertata attitudine dei maschi italiani. Lo diciamo con piacere in questa mattinata. Di cosa parliamo questa mattina? Questa mattina parlo del concetto del sacro. Il sacro è, nella visione di Rudolf Ott, un mysterium tremendum, qualcosa che fa vibrare le vene nei polsi, qualcosa che ci annichilisce, qualcosa che non capiamo e non concepiamo. Nella percezione comune popolare è qualcosa che comunque vada conservato perché ci mantiene un senso dell'esistenza, un senso della speranza, un senso che esista qualcos'altro. Il termine profanazione significa nella sua radice etimologica proprio qualcosa che viene portato fuori dal recinto del sacro, fuori del tempio. Profanare significa comunque andare ad intaccare in maniera impropria, in maniera non lecita, quello che è il confine di ciò che viene rappresentato come sacro. Nella nostra quotidiana percezione noi attribuiamo le caratteristiche di sacro a un'infinità di manifestazioni, non sempre riconosciute nell'ambito della metafisica o delle grandi teologie o dei sistemi comunque di salvezza dell'anima. Molte volte noi riteniamo che sia sacro, intoccabile, quindi soffriamo quando ne vediamo la profanazione per alcune manifestazioni che per loro propria natura non apparterebbero al novero di ciò che viene comunemente e per convenzione inteso sacro, ma ci fanno altrettanto soffrire. Io ho notato proprio in questi giorni qualcosa che mi ha fatto molto riflettere rispetto alle categorie che oggi meritano l'attribuzione comunque di aree improfanabili, perlomeno nella percezione generale. E attraverso le metodologie, le modalità, le nuove maniere che ha appunto questo sentire popolare che si ribella, che ribolle, che esprime il suo sdegno quando vede la profanazione, che possono essere ad esempio banalmente un social network. Non avrei mai immaginato che ci fosse una così vasta protesta, e si parlano di decine di migliaia di persone, che si sono profondamente indignati per un atto banalissimo, per il remake di un film. Ma se il film in particolare è un film che in una particolare latitudine del nostro paese, anzi in un'area diffusa del nostro paese, in una zona del sentire, dello spirito che non è delimitata da confini geografici ma da confini della sensibilità, si senta profondamente oltraggiata in qualcosa che non può essere toccato, qualcosa che è scritto con lettere di fuoco come appunto i libri, i testi sacri, beh allora la ribellione popolare fa sentire la sua voce. Calma zitta, amore mio, io sono uomo d'affari. Brinda la supercazzola prematurata, una cosa da segni. Tapioca terapia, dollari di sterline, allaccia scarpa, scarpa allaccia di cosa albergo. Il reverendo Vernocchi. Terapia tapioca come se fosse Antani, la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda. Come, prego? Terapia sulla supercazzola con scappellamento a destra o a sinistra? No, la cappella a sinistra e a destra. Antibodi. Scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche scribale come Fallina, come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un sintrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Eh? Ecco, lo alzi così, guardi. Lo vedi il dito? Lo vede che stuzzica? E prematura anche. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco. Questo è Tognazzi, il conte Mascetti, con la sua fantomatica supercazzola. La supercazzola ormai è entrata nel nostro lessico quotidiano come una maniera di esprimere un ragionamento volutamente ingarbugliato, contorto, indecifrabile e incomprensibile, che viene usato come escamotage per ridere, per prendere in giro, per superare un ostacolo, per dimostrarsi intellettualmente e leggiadramente superiore rispetto al proprio interlocutore. È un gesto di grande spocchia, è un gesto di grande alterigia e altezzosità esistenziale. La supercazzola non si può toccare. Questo perlomeno ha deciso un campione di persone non indifferenti. Si parla di 53.000 persone, non sono poche 53.000 persone, provate a metterle in fila, che in un gruppo su Facebook hanno da vario tempo protestato perché non ci fosse appunto la profanazione, perché qualcosa che ormai appartiene per diritto espugnato e conquistato al sentire popolare inteso come materia sacra, quindi materia intoccabile, improfanabile, come appunto la supercazzola e Amici miei e tutte le loro liturgie, litanie, quotidiane orazioni, c'è stata una protesta vivace. Neri Parenti, e questi giorni siamo martellati dal trailer, ha riproposto un prequel di Amici miei. Un Amici miei ambientato appunto in un intermedio decamerotico tempo fra il Rinascimento e fine del Medioevo, qualcosa del genere, così ha riproposto gli Amici miei come potevano essere le loro origini. Una delle tante normali e banalissime operazioni di B-Movie, con una serie di artisti noti per i cinepanettoni, nulla di particolarmente incisivo dell'indifferenza totale, eppure no. Eppure qualcuno si è indignato, 53.000 persone hanno protestato e detto Amici miei non si tocca, Amici miei è come le sacre inviolabili parole che hanno sancito la nostra cognizione dell'esistenza, guai a toccare Amici miei. All'apice del suo splendore Firenze fu colpita da una terribile calamità, la noia. Per combatterla 5 amici si affidarono a nuovi rimedi: zingarate, bischerate, cazzeggio, cazzeggio. Ma non voglio più fare! Non ce l'avete un altro nano? No! Sor Giulia, è arrivato un altro orfanello, va a pigliarlo, vai! Questa la non è in vendita, è troppo pericolosa! Perché? Che l'ha fatto? Il padrone precedente la gli ha tagliato l'uccello. La compro! Brutto bucaiolo, non ti sei aiutato a comprarla! La schiava, lei di tutti! Oh! Jacopo, ma che sei buco? Buco? Sodomita. Aiutatemi amici, fermi, stare fermi. E c'è un equivoco, è un ne sodomita. Diteli anche voi. Vergogna, sudiciore. 800 24 00 24. Questa mattina vorrei confrontarmi con il mio pubblico, non soltanto coloro che abitano in area fiorentina, ma visto che Amici miei è ormai considerato un patrimonio dell'umanità. Amici miei, è intoccabile perché viene considerato un bene comune, un bene inviolabile, come quei monumenti che non appartengono necessariamente a un passato remoto. Voi immaginate l'archeologia industriale. Io vengo da Perugia, la vecchia antica fabbrica della Perugina, che era il sogno, la scaturigine di tutti i nostri sogni, di tutte le nostre immaginazioni. Quando soffiava quel venticello di tramontana dal colle del centro di Perugia e il profumo della cioccolata arrivava sino a tutta la valle del Tevere, la Perugina era la porta aperta verso il paradiso. Quando poi è stata demolita, hanno fatto lì un centro commerciale, una zona dirigenziale, hanno lasciato la ciminiera fatta di mattone, la Perugina, quella dove usciva il profumo di cioccolata. Perché? Perché è archeologia industriale, anche se magari è stata costruita meno di 100 anni fa, probabilmente è degna di essere conservata. Perché? Perché ha fatto sognare generazioni e generazioni con il profumo di cioccolata, quindi è un patrimonio dell'umanità da tutelare. Per queste 53.000 persone, che non sono poche, molte meno persone in Italia fanno opinione, raccontano e ogni giorno costruiscono la realtà attraverso i giornali, sono molto meno i giornalisti che firmano sui quotidiani, che comunque rappresentano, o fanno i telegiornali, comunque rappresentano l'opinione. 53.000 persone hanno definito che il blocco, amici miei, come noi ci ricordiamo, è patrimonio dell'umanità e quindi intangibile, quindi intoccabile. Quindi nessuno può porre qualcosa che c'è stato prima, qualcosa che ci sarà dopo. Rimane in un tempo assolutamente intoccabile e improrogabile e indilatabile, come appunto il tempo del sacro. Giuseppe Sansonna, tu sei d'accordo? Buongiorno, io sono d'accordo fino a un certo punto, perché sono un po' allergico alle crociate troppo seriose, soprattutto quando si parla di un argomento comunque leggiadro, sottile, non troppo serio come questo, però in ogni caso può essere utile porre un confronto tra i due mondi. Io ho visto solo il trailer di questo prequel parentiano e mi sembra un grosso spottone con delle luci da Occhi del cuore, la fiction derisa da Boris, tutto molto piatto, con questi faccioni catodici un po' bolliti, che dovrebbero comunque entrare in confronto con figure entrate nell'immaginario collettivo italiano a tutti gli effetti, come strepitosi interpreti di questa goliardia sfinita e malinconica fiorentina, che era il primo Amici miei ideato da Germi, e poi morì Germi e lo affidò in punto di morte a Monicelli, che lo trasformò in questa saga che era venata di grandi sfumature. Io ho visto, non vedo nel trailer se il trailer è il meglio, non vedo, cioè non sono solleticato a vederlo. Secondo me, Giuseppe, l'operazione questa mattina non è tanto giudicare se il trailer è degno della sequenza inarrivabile di Amici miei, ma giudicare che per la prima volta noi consideriamo, vediamo considerare un film che non fa parte certo dei film che l'alta critica considera degni di passare attraverso la polvere dei millenni, però popolarmente viene il popolo, che è una parolaccia detta da me, capito? Diciamo l'immaginario popolare se ne appropria come un patrimonio che non può essere toccato. Però a me non interessa, potrei essere, io sono un fanatico di cinepanettoni, figuriamoci se mi faccio coinvolgere in battaglie di tipo moralista sul brutto bel film. È che Amici miei viene considerato un unicum che appartiene appunto a un tempo in cui non può essere aggiunto nulla e prolungato nulla. Sentiamo qualche voce di persone interrogate su questo tipo di problema. No, non lo possono fare, cioè Amici miei è storia a Firenze, non si può rifare per un cinepanettone, non esiste. Un ricordo eccezionalmente bello e non vorrei che mi fosse un attimino sgretolato questa situazione. Amici miei è uno dei film più belli italiani di sempre, secondo me. Vediamo cosa viene fuori, sicuramente non potrà nemmeno arrivare a essere paragonato a quello originale. Questa era, diciamo, una vox populi sulla protesta che c'è stata. Firenze è stata attraversata da un primo segno di disagio quando si seppe che sarebbe stato girato questo film. Poi almeno ieri molti mi hanno scritto, sì, però dice, quando hanno cominciato a girare le scene tutti i fiorentini correvano a fare le comparse al film. Diciamo che la protesta ha avuto una vasta eco sui giornali, il Corriere della Sera l'altro giorno ha dedicato un'intera pagina, sull'ultimo numero di Panorama c'è un'intervista esclusiva a Christian De Sica, sono un cavallo di razza come papà, Amici miei non sarà un oltraggio a quello di Monicelli, che ne dicano quei soliti che fanno i critici. Quindi diciamo è una delle poche volte in cui una protesta che nasce nella rete ha un'effettiva ricaduta. Una ricaduta così forte, così potente, che qualcuno dice: ma è tutto un'operazione pubblicitaria organizzata dal produttore del film per far parlare di un film che in sé non avrebbe nessuno spessore, nessuna idea di successo. Vediamo se questo è vero, perché abbiamo al telefono Franco Bagnasco, che è un giornalista che forse è il precursore, il capopopolo, l'iniziatore di questa protesta. Franco, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi. Nasce da te, Franco, o sei uno, diciamo, delle persone che ha contribuito a questa crociata per mantenere Amici miei come un patrimonio dell'umanità, quindi intoccabile? Nasce da me, che ero a casa una mattina con l'influenza, apro il giornale e leggo che Christian De Sica ha in mente di fare rifare Amici miei. Mi cascano le braccia, per non dire altro, e apro su Facebook un gruppo, Facebook tira tantissimo, per dire no, per dire fermiamo De Sica, e il fermiamo ovviamente in modo pacifico, fermiamo con delle firme, fermiamo con delle adesioni. Nel giro di due giorni c'erano 200 iscritti, nel giro di 10 giorni eravamo in 10.000, nel giro di 6 mesi 50.000 persone dicevano no, con tutte le sfumature possibili di linguaggio, a volte anche colorite come possono essere i toscani, dicevano no a questo progetto che riteniamo assolutamente irrispettoso. Hai fatto un inizio altissimo e splendido che mi ha quasi commosso parlando di sacro, perché amici miei è questo, è sacro, è un mix di cose, una malinconia, citando impropriamente Masini, goliardate, commedia, il senso della morte. Noi ci dimentichiamo che Amici miei è anche questo. Chi parla di Amici miei solo come di un film comico ha sbagliato tutto. Sì, perché è una parabola esistenziale. Iniziano, diciamo, giovani di mezza età e poi si trovano di fronte alla tomba di molti di loro. Alla fine c'è la morte. Gli amici muoiono, come accade nella vita. La morte, si ride della morte. Cioè, cose che Neri Parenti e tutta la sua filmografia è lì a dimostrarlo, non può nemmeno pensare di poter accostare, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Né allora io posso dire una cosa, conosco Franco Bagnasco da 15-20 anni, ci occupavamo delle stesse cose quando andavamo in giro per l'Italia a fare i cronisti, abbiamo scherzato sulle peggiori cose, siamo trovati ad Assisi a comprare le statuette dei fratacchioni col pisello che esce sotto la tonaca, abbiamo fatto di tutto, quindi so che è persona che tollera e gradisce tutto ciò che è scherzo e facezia, non è né un bacchettone né un censore. Se Bagnasco ha avuto questo senso di disagio così forte, che io in parte condivido, evidentemente c'è una ragione. Ma, scusi, ma noi ci conosciamo? Lei no, ma io sì. Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo. È un parente di Crotone? Molto di più di un parente. Adelina le voleva molto bene, sa? Ma scusi, ma lei chi è? Che importa il nome? Ormai di fronte alla morte non resta che la comprensione e il perdono. Tutti e due l'abbiamo amata. E lei ci ha amato tutti e due. Me più fisicamente, più ma carnalmente. Te più spiritualmente, Paolo. Ma cosa sta dicendo? Lei è stato? Adelina è stata? Per questo il mio dolore è pari al tuo. Possibile? Noi siamo fratelli nel dolore, Paolo. Ma non è possibile. Adelina proprio tu. Cosa esiste di più crudelmente sublime che andare al Camposanto, mettersi davanti alla tomba di una donna morta e far credere al vedovo che sia l'amante della povera e casta scomparsa? 800240024, è possibile profanare l'inarrivabile? A tra un istante, dopo l'informazione dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800240024. Cosa vi suggerisce il blocco Amici miei? Quali sono i ricordi che si reputano così profondi, così condivisi vastamente e così intoccabili da avere meritato una protesta di 53.000 persone, solo il tentativo di fare un prequel, un film che comunque si ispirasse alla saga di Amici miei? Forse Amici miei è la impossibilità di rassegnarsi che gli anni passano, è questo spirito che io ben conosco perché fa parte un po' anche della mia terra, diciamo alla parte i maledetti toscani, che gli Umbri sono i cugini più simili ai toscani, quindi io so cosa significhi non rassegnarsi mai a dover dire la cosa dissacratoria, la battuta che nessuno apprezza, a non volere mai rassegnarsi che gli anni sono passati, i nostri capelli grigi ci imporrebbero comunque austerità, ci imporrebbero tranquillità, ci imporrebbero uno sguardo più compassato, austero sulla vita che noi non vogliamo avere. È forse questo che noi non vogliamo vedere toccato in Amici miei. 800240024. Americo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ma guardi, le dirò subito, a me sembra un termine appositamente forte, ma mi sembra un'idiozia. Cosa le sembra un'idiozia? Il prequel. Ah, il prequel. Il prequel sì. In se stesso. Perché Amici miei è stato un momento, poi possiamo definire tutti gli aggettivi possibili immaginabili, che doveva comunque finire. È finito un ciclo, tre film, una cosa fondamentalmente stupenda e toccante anche da un punto di vista emotivo. Basta, è finito. Cioè, nonostante io faccia parte della generazione che chiaramente ne sente la mancanza, essendo cinquantenne, obiettivamente un po' la mancanza ne sento, specialmente di certi livelli di attori, di certi livelli di comicità. Sì, ma io non entrerei in merito, se permette, non entrerei in merito agli attori di maggior o minor spessore, entra in merito proprio al senso assoluto. Sì, lei ha detto, detto una cosa molto giusta, non c'è bisogno, prego, perché ho iniziato con una dissertazione sul senso del sacro, perché se pensa come proprio considerarlo, naturalmente con tutti i benefici di inventario e senza meritarsi gli strali, è una metafora che rende l'idea. Le immagini va dalla Genesi all'Apocalisse, amici miei. Non c'è bisogno di aggiungere qualcosa prima, non c'è una storia che precede la storia, amici miei, perché, amici miei, inizia con un'età già matura. Non ci sarebbero le zingarate se i protagonisti fossero dei ragazzi scavezzacollo. La zingarata diventa tale perché è un quarantenne, cinquantenne a farla. Esatto, assolutamente sì, lo trovo perfettamente giusto. E a questo punto è tanto inutile, ma non lo so, anch'io mi indigno, adesso non faccio parte dei 50 anni. No, io non mi indigno mai, c'è nulla che mi faccia indignare, osservo semplicemente. E dico che secondo me è stato colto un punto importante nella storia contemporanea che per motivi imprescindibili, probabilmente che travalicano anche le intenzioni degli autori, si è creato una sorta di narrativa popolare che ha tutte le caratteristiche appunto della narrativa che comunque doveva raccontare grossi temi di un'epica popolazionale, chiamatela come volete, capito? Qualcosa che racconta ciò che è grande attraverso linguaggi semplici. Attenzione, torre pericolante! Scontrare! Largo, largo, bandiera gialla! Pericolo incombente tra la via da Piocola e la supercazzola! Quarantena! Ma santa Madonna! La bolla è a 170 gradi! Crollo imminente! Crollo imminente! Abbandonare la torre! Scendere senza panico, in ordine. Attenzione, zona di rispetto indietro. Mettiamo le transenne. Scendere senza panico, in ordine. Leave the tower. Step down. Questa era la zingarata dell'imminente crollo della Torre di Pisa, ricordate, si seminò il panico, ma quanto assomiglia comunque alle pubbliche e importanti gestioni delle grandi catastrofi. Francesco, buongiorno. Buongiorno, io quella scena l'ho vista quando ero all'università a Pisa, che stavano girando, e devo dire che con gli amici miei abbiamo fatto tante di quegli scherzi, ci siamo ispirati agli scherzi del film, pezzi che mi hanno addirittura fatto partire militare nonostante che avessi il rinvio, mi hanno fermato soltanto davanti alla capitaneria di Porto di Livorno quando erano tutti lì a aspettarmi la mattina mentre io me ne stavo per partire militare. Ma secondo lei era amici miei che immobilizzava un modo d'essere, un modo di sentire tipico appunto dell'area toscana, prima che arrivassero i Pieraccioni, Panariello, arrivasse questa toscanaggine mediata e fittizia, oppure siete voi che vi ispiravate, amici miei, che vi insegnava qualcosa? Ci insegnava qualcosa, ci ha insegnato qualcosa, ci ha insegnato un senso della vita diverso da quello che erano gli archetipi, i modelli canonici, però è lo spirito del toscano che è così, guardi, ancora oggi che ho 53 anni con gli amici miei facciamo delle zingarate, ci divertiamo ancora, ovviamente i tempi sono cambiati perché oggi non è che tutti sono disponibili a scherzare o a prendere nello scherzo come facevamo una volta, pensi un po' se si va alla stazione, a parte che i finestrini dei treni non si aprono più e dai uno schiaffo a uno, quelli ti denunciano, ti arrestano. No, ma poi Frecciarossa è sigillato, non c'è manco spazio per affacciarsi, è chiaro. Devo dire che per questa missione noi abbiamo cercato di coinvolgere un po', abbiamo chiamato naturalmente la produzione del film, gli abbiamo proposto di partecipare, ma non ci hanno fatto sapere nulla, avevamo anche chiamato il sindaco Renzi di Firenze, ma era occupato questa mattina. Ci piaceva coinvolgere la fiorentinità, nei riparenti pure fiorentino, e su questo film, ma non ce ne importa, ce lo facciamo da noi. È una condizione dell'esistenza che appartiene a tutti, non è detto bisogna, occorre essere fiorentini per forza per ambire di fare le zingarate. Oggi, 5 ottobre, ho traslocato in casa di un amico del babbo. Che è? Il diario che la signora maestra ci fa tenere alla fine di ogni giornata. Brava, intelligente questa maestrina. Lui dice di essere conte, ma invece sta in un seminterrato alla giapponese. Tutto di accio e umido, senza telefono, senza acqua calda, col cesso coi piedoni. E un fornelletto dove la moglie ci ha cucinato una frittatina di due uova, che abbiamo mangiato in tre. Più un rinforzino, come lo chiama lui, di 9 olive di numero, mezzetto di stracchino e un quarto di vino sfuso. Tutto, vitto e alloggio, per 150.000 lire, che mi pare proprio una rapina, anche se lui, per fare il conte, chiama Castello. Giuseppe Sansonna, quanto c'è dell'Italia che noi da un paio d'anni osserviamo attraverso la commedia cinematografica in questa famosa lettera del Perozzi, il figlio del Perozzi, che parla del conte Mascetti, il vorrei ma non posso, portato a livello di sublime arte della sopravvivenza di un blasone che non esiste. Sì, c'è l'analisi impietosa di questo figlio molto serioso del Perozzi Noiré, che osserva il patetismo, lo dissacra, lo demolisce, il patetismo del conte decaduto Mascetti. Infatti a me quello che affascina, che interessa di questo di questa conversazione causata da questo prequel, è andare ad analizzare quelle che poi erano le caratteristiche pregnanti di questi cinquantenni che non trovano soddisfazione nel lavoro che fanno e vivono questo tempo sospeso dalla zingarata. Cioè, in fondo anche Perozzi fa il giornalista, Melandri fa l'architetto, però sono fuori dalla vita. La vita in sé è lavorativa e loro non gli interessa, gli interessa incidere. Come si sente fuori la maggior parte di noi pur facendo questi mestieri? Noi ci accorgiamo che ci manca, amici miei, e che ci rappresenta proprio adesso, perché qualcuno lo vuole in qualche maniera contaminare. Come ti accorgi che vuoi bene alla moglie quando ti mette le corna? La stessa cosa, è la stessa identica situazione. Tu ti accorgi che amici miei ti rappresentava, quindi non vuoi che nessuno cambi la rappresentazione ideale di te stesso nel momento qualcuno ci mette le mani. Franco Bagnasco, iniziatore della battaglia contro il prequel di Amici miei, una tua riflessione alla luce di quanto stiamo dicendo questa mattina. A parte che Amici miei nasceva a Bologna nell'intento di Germi, quindi addirittura si può anche un po' spostare la toscanità e portare il discorso a livello nazionale, però Amici miei non è una regione, un posto, è una stagione della vita che può essere, esatto, sì, quello che può essere finita, avere un inizio e una fine, e può essere infinita. Poi resta il giudizio a chi vede il film e fa allegre o amare riflessioni e può considerare se sia un bene o sia un male che questi cinquantenni che ancora inseguono le zingarate siano lì sulla piazza. Io ho avuto un collega che era identico al conte Mascetti, un personaggio straordinario, misto di cialtroneria e di grandezze. E questo per me, amici miei, un grosso pezzo della mia vita. Sai, io poi ti dirò, dal mio punto di vista, visto che le vicende personali prevalgono poi su quelle pubbliche quando parliamo di queste cose, io mi sono anche stancato di sentirmi guardare con lo sguardo altezzoso da queste signore così impegnate, e mi dicono: tu hai una visione adolescenziale anche della donna. Io mi sono trovato a far battaglia per difendere le ragazze di drive-in contro chi diceva che hanno l'inizio di un modello di depravazione del modello femminile, dell'abuso del corpo femminile. Dice: ma erano simpatiche ragazze, ma la tua è una sessualità adolescenziale, se ti piacciono queste ragazze. Beh, allora appartengo a questo tipo di adolescenza. Umberto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Umberto da Roma. Come la pensi? Io volevo semplicemente fare un parallelo, non so se l'hanno già fatto perché mi sono collegato adesso, con Febbre da cavallo. Beh, è molto esatta la sua lettura. Fece un rifacimento di Febbre da cavallo e sembrò un affronto all'epoca. In realtà più sono splendidi i film che hanno fatto, vedi Amici miei, di Febbre da cavallo, e più non hanno niente da temere, non c'è nessun affronto. Febbre da cavallo fu un film apprezzato abbastanza. Ma non, lo sa che Febbre da cavallo, c'erano persone negli anni 90 e anni 2000 che si vedevano puntualmente ogni settimana per riguardare il VHS di Febbre da Cavallo assieme. Esatto, era un culto, esatto, era una liturgia Febbre da Cavallo. Esatto, no, ma poi fu una, è un film completamente diverso perché non si parla della morte, chiaramente. No, si parla della cialtroneria romano-centrica, tipica. È cruda per il puro piacere di soffrire appresso a un cavallo, mentre in Amici miei c'è, appunto, come dicevate voi, c'è questo alone della morte che poi si concretizza alla fine, a parte che poi, tra l'altro, se mi permettete, gli attori che lo faranno adesso, con tutto il rispetto, non hanno quella malinconia che era propria di Adolfo Celi e di tutto il resto. Ha ragione, lei ha perfettamente ragione. Ecco, è il senso della malinconia, questa nostalgia che ci strugge, che ci rovina, che ci massacra l'anima e allo stesso tempo ci dà l'alimento per continuare ad essere in maniera pessima quello che siamo sempre stati. Grazie Umberto, ci sentiamo tra un istante dopo le informazioni del traffico. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait. Ci siamo un attimo in melanconiti. Ho rotto questa melanconia visto che i miei colleghi rocchetti intonti che stamattina vanno a fare Amici miei hanno pensato bene di impuzzarmi la stanza in cui sto con del provolone, sapendo che io ho un problema di olfatto, un olfatto ipersensibile, sento gli odori e mantengo gli odori per vario tempo. Mi hanno nascosto un pezzetto di provolone qui in mezzo alle mie carte, io sentivo questo odore terrificante, non volevo accusare, perché visto nessuno mi ha preceduto in questo studio, di intemperanze intestinali, ma in realtà era questo pezzo di provolone che adesso trovo e scovo e con cui dovrò convivere fino alla fine della trasmissione. Ma questo fa parte comunque dell'immarcescibile spirito dei miei colleghi, che altrimenti non potrebbero lavorare con me. Angelo, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Allora, io vorrei fare la voce fuori dal coro. Benissimo, la faccio. Allora, pur essendo d'accordo con i miei predecessori sulla sacralità dell'originale, io sono uno, penso, pochi, tanti, medi, non lo so, che non ha visto Amici miei, per cui ben venga un remake, serve per così, per scuotere un po' le coscienze e stimolare, magari adesso mi è venuta voglia di andare a vedere l'originale. Ma guardi, perché no? Alla fine di questa trasmissione sono anche io grato a Neri Parenti, che mi ha dato l'occasione. L'ho fatto già prima l'esempio, un esempio crudo, ma uno si accorge che ama o desidera o non può fare a meno di una donna quando questa donna gli mette le corna. Forse vale anche per gli uomini, non lo so. Quindi in questo momento che qualcuno ha messo le mani su qualcosa faccia parte della mia memoria sommersa, non percepita, se non a livello così subliminale, mi rendo conto quanto per me era importante questo film o questa idea o questa concretizzazione attraverso una commedia cinematografica di una visione del mondo. Quindi sono grato a Neri Parenti che con la cialtronata di cinepanettonizzare un importante saga cinematografica mi ha fatto riflettere su questa nostalgia, questa malinconia, questo voglio di continuare a essere ragazzo finché ancora uno avrà fiato. Giuseppe Sansonna, come la pensi? Ma io penso che ha stimato le stesse cose in me e io ho molta voglia di vedere un Amici miei con dei cinquantenni di oggi, però ambientato nell'oggi e non spostato, come dicevi tu, nella cifra del decamerotico, un po' troppo leccato. Ma vediamo una cosa, Giuseppe, perché sembra così difficile e impossibile farlo ambientato oggi? Perché i cinquantenni di oggi in realtà hanno perso, dimenticato o si vergognano di questa sorta di chiave adolescenziale, sono tutt'altra cosa. Sì, forse c'è anche un po' più di solitudine, un po' meno voglia di appunto lanciarsi in queste, e forse anche il dissacrare a un'altra cifra, perché in fondo il cazzeggio è generalizzato e universale anche a livello più ampio, più dal punto di vista delle istituzioni, tutto. Quindi è un po' difficile assumere un atteggiamento realmente dissacrante rispetto all'austerità. Anche ma diciamo che oggi, adesso non voglio scendere in politica, però è troppo presente per non dirlo, non esiste più una capacità autoironica, nessuno più si guarda allo specchio e ride su se stesso, trasforma in gloria i propri difetti, perché c'è un modello unico di dissacrazione. Oggi i giornali sono pieni dell'operazione alla mascella di Berlusconi, come vedi si è creata una sorta di feticcio del ridere che non permette di tirare fuori questa nostra auto-irrisione. Franco Bagnasco, sei d'accordo? Senza buttarla in politica. No, io penso che Amici miei oggi non sia ripetibile perché non è credibile, non è più credibile oggi Amici miei. Oggi l'atmosfera alla Amici miei, ma virata tutta in un altro senso, è Muccino, sono gli uomini con che hanno sbandamenti sentimentali, questi film dove si vedono amorazzi e amoretti, ma non c'è più. È quello che noi abbiamo chiamato il moccio amoroso dell'amore moccioso di Moccia Muccino, esattamente, esatto, questa secrezione. Moccia Muccino style. Però, amici miei, oggi non sarebbe più ripetibile, è per quello che deve essere lasciato dov'è quella trilogia, anche se il terzo era oggettivamente più debole degli altri due, diciamolo, perché bisogna essere onesti. Però sì, era un po' allungato nei tempi, poi alla fine l'angoscia era troppa e prevaleva sull'aspetto del divertimento, quello è vero, sì. Fu fatto nell'85 da Nanni Loi, che non è Monicelli, ovviamente, che così come Neri Parenti non è né Monicelli né Nanni Loi, ma comunque non credo che oggi sia più possibile ripetere. E quindi, come dicevo io, quell'archeologia industriale, quella sorta di patrimonio umanità, va tutelato perché rappresenta qualcosa che si è perduto, è come il panda, bisogna conservarlo per ricordarsi come eravamo. Certo che se sapevo che mi facevo così male, col cavolo che ve lo davo il mio rene, perché ve l'ho dato io, Anche lui vi ha donato un pezzo di pelle della natica per la plastica della cicatrice. Non si vedrà assolutamente più nulla. Ma che mi avete appiccicato un pezzo di pelle di sicuro? Certo, lui mi ha dato il rene, io vi ho dato il culo. Nicola, buongiorno, l'ultimo ascoltatore. Sì, buongiorno, grazie dello spazio. Niente, io volevo semplicemente dire che tutto ciò che è sacro esiste in quanto esiste per essere dissacrato, diciamo. È verissimo, non ci sarebbe sacro senza dissacrazione. La vera gloria del sacro è quando qualcuno tenta di dissacrarlo. Il tentativo di profanazione, secondo me, circuisce lo spazio sacro. Quando qualcuno vuole violarlo impropriamente, vuol dire che quello è uno spazio sacro. Se posso fare un piccolo esempio. Sì. Niente, ho visto recentemente un film, Funny Games. Ho visto il remake dello stesso regista, ha fatto la pellicola ad Hollywood, con le stesse inquadrature ma con attori diversi. Non è la stessa cosa. Anche se un regista ripetesse un film, non riuscirebbe a ripeterlo allo stesso modo, no? Dunque, non c'è timore e viva la dissacrazione totale. Ma lei, rispetto a Amici miei, è qualcosa che appartiene alla sua esperienza, al suo ricordo, alla sua nostalgia, oppure parla in generale come qualsiasi operazione cinematografica? Parla in generale, però dico ad esempio che il ricordo è la scena degli schiaffi alla stazione, però se posso dire Amici miei mi infastidisce in certe scene, capito? Si sente anche lei, diciamo, scoperto. Sì, infastidito da certe scene perché le trovo anche esagerate, a me non voglio anche di reagire, di mandare un po' tutto all'aria. Va bene, ma mica hai detto, il bello è che non è necessariamente tutta l'umanità che si debba sentire rappresentata, ma esiste una deriva nell'età matura di numerosi uomini che sembra, come diceva giustamente Franco Bagnasco, abbastanza esaurita o non più rappresentata, che si sente fortemente celebrata, consacrata e ricordata in quei tre film che tutti vorremmo che fosse mantenuto proprio come un patrimonio dell'umanità. Grazie Franco Bagnasco, grazie Giuseppe Sanson, grazie a quelli che hanno telefonato, ci sentiamo domani. Alors tous deux on est partis dans le tourbillon de la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.